Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Martedì 5 ottobre, buongiorno e bentornati di nuovo a tutte e tutti su Liberi Dentro e Eduradio TV, il programma che, come sapete, fa da ponte tra il carcere e la città. Io sono sempre Caterina Bombarda con Antonella Cortese alla conduzione di questo programma. Ciao Antonella. Ciao Caterina, buongiorno a tutte e a tutti. E partiamo subito con le notizie che abbiamo scelto per voi oggi. Io oggi ve ne racconto una dalla regione Campania. Detenuti con problemi mentali, pochi reparti e senza psicologi non vengono curati. Lo leggo da Il Dubbio a cura di Viviana Lanza. Perché, come sapete, quello dei detenuti con problemi psichiatrici, già molte volte con Eduradio siamo tornati sull'argomento, è un dramma nel dramma. Ma cerchiamo di capire il perché, a partire da una storia di cronaca, la storia di Mariano Cagno, l'avete sentita forse sui giornali, il 38enne in carcere, con l'accusa di aver preso in braccio il piccolo Samuele Gargiulo per poi lasciarlo cadere nel vuoto dal balcone della casa dove lavorava come domestico. Da lunedì scorso Cagno in cella sarà in isolamento per i primi 10 giorni, come prevede le norme anti-Covid, e per lui ora gli inquirenti, il difensore, stanno valutando un incidente probatorio e una perizia psichiatrica per valutare le sue condizioni mentali e il grado di capacità di intendere e di volere. Nel carcere di Poggio Reale, però, dove Cagno ora è detenuto, non c'è una articolazione specifica, ed è qui il problema, per i detenuti con problemi di salute mentale. Eppure, dalla relazione annuale del Garante regionale dei detenuti, Samuele Ciambriello, emerge che ogni anno nel carcere cittadino di Poggio Reale transitano o restano reclusi centinaia di detenuti coinvolti in percorsi psicologici o seguiti prima della carcerazione da servizi di salute mentale. Quindi è assurdo che questo carcere sostanzialmente non preveda una sezione speciale adeguata. Questo è il caso di Mariano Cagno, in cura, secondo la testimonianza che ha fornito agli inquirenti, presso il centro di Santa Maria Antesecula e ora al centro di un caso giudiziario e mediatico per via di un reato terribile che è per l'appunto la morte di un bambino. Caterina, questa storia è divenuta da una parte un caso giudiziario e dall'altra anche un caso mediatico. Sì, caso giudiziario per ovvi motivi, ci sono indagini in corso e si cerca di risalire al movente dell'omicidio. Mediatico perché il clamore si è creato attorno alla tragedia ed è talmente forte che non solo i parenti di Cagno, ma anche la famiglia della vittima, ma anche i residenti della zona hanno chiesto veramente ai giornalisti e ai media pietà e di smetterla di fare foto e video. Il garante regionale, del resto Samuele Ciambriello, parla di un populismo penale e politico, pur riconoscendo l'assoluta gravità di quanto accaduto. Il garante conosce bene i drammi e le criticità del mondo penitenziario, chiaramente, soprattutto quando si affronta il tema della salute mentale. Ha affermato, infatti, in tutte le carceri della Campania ci sono decine e decine di detenuti di cui sappiamo poi che erano in cura presso dipartimenti di salute mentale, ma non in tutte le carceri ci sono articolazioni dedicate alla salute mentale e quindi presto il gioco è fatto. Ecco qui il cortocircuito, la criticità e il dramma che è dietro l'angolo. Pensate che a Poggio Reale, il più grande carcere cittadino, solo nel 2020 ha ospitato 170 detenuti coinvolti in percorsi psicologici e 168 detenuti che prima della detenzione erano in cura presso un centro di igiene mentale, quindi veramente dati allarmanti. Infatti ci sono dei numeri molto molto alti e sembrano anche alla fine sproporzionati. Immagino che non avendo tutte queste persone che possano curarli ci sia veramente un divario. Sì, pensa che in Campania di istituti di pena che prevedano un'articolazione appositamente attrezzata per la gestione di detenuti con patologie psichiatriche sono soltanto 5 su un totale di 15 strutture penitenziarie presenti nella regione. E pensare, e qui concludo facendo una riflessione che vuole essere una riflessione per tutti, che secondo le statistiche più recenti i disturbi mentali e le sindromi ansiose in carcere e di rispecchio nella società sono soltanto aumentate. Quindi è un invito a prendersi veramente in carico questo problema. Ma rimaniamo con la pausa musicale fra pochissimo, sempre con i Queen, Don't Stop Me Now, e ci rivediamo tra pochissimo. Ben ritrovati, sempre su Liberi Dentro e Radio TV. Come al solito il martedì è una giornata particolare perché noi lo abbiamo dedicato a In Giro per il Mondo in una città e questa volta, Antonella, abbiamo Bucarest. Sì, questa volta andiamo a fare un viaggio in Romania, andiamo a Bucarest, però voglio cominciare come di consueto con una poesia, questa volta con una poesia. Se si potesse un giorno misurare l'incommensurabile, abbracciare l'illimitato e attraversando il nulla non essere l'uno nell'altro. Se si potesse un giorno essere amore senza amare, essere speranza senza sperare, essere parola senza parlare, essere pensiero senza pensare. Se si potesse un giorno udire l'inudibile, vedere l'invisibile e apprendere l'ignoto, ci sarebbe un nuovo inizio. Bene, questa è una poesia di una famosissima poetessa rumena che si chiama Elena Liliana Popescu e che ci porta di fatto a Bucarest, soprannominata la piccola Parigi, che è la capitale e anche la città più popolosa della Romania. Infatti fa circa 2 milioni di persone ed è addirittura la più popolosa, la sesta più popolosa in Europa. E posta nel sud del paese, sul fiume Dambovița, è il maggiore centro industriale e commerciale del paese. Però la cosa che mi ha più incuriosita, francamente, sono le persone. Infatti, se c'è una cosa che non si può non riconoscere ai romeni è sicuramente l'autoironia. Dietro quell'aria un po' austera e di velata tristezza, che è un po' tipica delle popolazioni sopravvissute allo stalinismo, si nasconde infatti un volto sornione e sorridente, divertito prima di tutto dai propri punti deboli. Insomma, si prendono molto in giro e si sanno ridere addosso. Ma sicuramente questa dell'autoironia è qualcosa di bellissimo, ma perché dici questo? Perché guarda, è l'unica città, tanto per dire, a possedere un museo del kitsch, se non si prendono in giro così. L'atteggiamento disinvolto e simpatico del popolo romeno rispetto alla vita è di chiara matrice latina. E un'origine che tra l'altro loro rivendicano con orgoglio, tant'è Caterina che addirittura c'è una statua della Lupa di Romolo e Remo in pieno centro storico, quindi insomma è una rivendicazione delle origini molto molto chiara. E poi un'altra caratteristica forse può meravigliare qualcuno, è l'onestà. Infatti, appena si atterra all'aeroporto di Bucarest, che è conosciuto anche come Bucarest Otopeni, davanti all'entrata principale, per esempio, c'è una fila composta di taxi che attende i turisti sotto un cartellone che parla molto chiaro e che dice: niente ladrocini, il servizio costa 2 leu al chilometro. E i nostri pregiudizi che fine hanno fatto allora? Beh, quelli li abbiamo lasciati in aeroporto perché fuori c'è Bucarest, una città bella, interessante, simbolo di resilienza e determinazione, soprattutto piena di giovani. Allora, continuiamo il viaggio. Una volta arrivati all'aeroporto c'è questo cartello che indica, insomma, all'onestà. E dove andiamo? Cosa possiamo visitare dopo? Guarda, visitiamo subito l'edificio dei record e mi riferisco al Palazzo del Parlamento o diciamo la Casa del Popolo. Ed è molto bello fare un tour lì perché questo edificio ha una storia molto strana. Fu fortissimamente voluto da Nicolae Ceausescu, che poi paradossalmente non ci mise neanche piede, per manifestare al mondo la grandezza della Romania comunista. Pensate che il Palazzo del Parlamento e la sua struttura è la più pesante al mondo, è la seconda più grande dopo il Pentagono, tra l'altro, ed ha una superficie di 350.000 metri quadri e una valutazione immobiliare stimata intorno ai 3 miliardi di dollari. I lavori per tirarlo su, tra l'altro, iniziarono negli anni Ottanta dopo una illuminante visita di Ceausescu in Corea del Nord e in Cina. E quindi gli venne in mente di sfrattare tutti, e persone quindi, e famiglie intere che venivano allontanate perché quella terra serviva a costruire la Casa del Popolo, e che per il dolore addirittura molte si suicidarono. E i numeri e gli aneddoti su questa costruzione sono tantissimi, eh? Veramente forse rendono ancora più che l'edificio stesso la portata di questo, tra virgolette, monumento della storia. E un'altra tappa imperdibile di questo tour immaginario è la Piazza della Rivoluzione, il luogo dove proprio nel 1989, il 21 dicembre, il regime comunista di Nicolae Ceausescu cominciò a sfaldarsi. E, tra l'altro, sul palazzo principale, tra i fori dei proiettili, delle pallottole usate dai fedelissimi del dittatore per disperdere la folla, sopravvive il ricordo di quei giorni, ma non solo, sopravvive anche un'altra cosa, una gettata di vernice che ci hanno buttato sopra rosso sangue, tra l'altro, che rimane un po' a indomita memoria, tant'è che non l'hanno neanche voluta togliere, e questo dimostra quanto siano ironici queste popolazioni della Romania. E per rimanere in clima di ironia, in clima di musica, vi facciamo ascoltare un brano del Gypsy Jazz Hot Club Dunax, che si chiama Joseph Joseph. We'll never ask her, will she name the day? He calls on her each night, and when she dims the light, it's 10 to 1 that you will hear her say, "Oh, Joseph, Joseph, won't you make your mind up? It's time I knew just how I stand with you. My heart's no clock that I can stop and wind up. Each time we thank you. E rieccoci, bentornati su Liberi Dentro Eduradio e TV. Come sapete, per la seconda parte della nostra programmazione settimanale abbiamo sempre un ospite, e per questa settimana l'ospite è il garante delle persone prive della libertà personale del Comune di Bologna, Antonio Iagnello. Buongiorno. Buongiorno. E garante che qualche settimana fa ha presentato durante la seduta della commissione consiliare la relazione annuale sull'attività svolta. Allora, cerchiamo un pochino di fare il punto della situazione. Lei, garante, su questa annata 2020-21, nel suo ruolo di vigilanza su quelli che sono i luoghi della privazione della libertà personale in ambito comunale, quindi le carceri, sia la carcere per adulti sia il carcere minorile, c'è un punto fondamentale. Ecco, quali sono i numeri all'interno del carcere, nonostante forse quello che è stato un po' un dato in decrescita durante la pandemia dovuto alle misure alternative alla pena. C'è ancora il sovraffollamento? Assolutamente. Innanzitutto vi ringrazio per l'occasione. Siamo sempre, come dire, connessi con quelle che sono le iniziative di Eduradio. Faccio una piccolissima premessa con riferimento, diciamo così, a quello che è il passaggio istituzionale della presentazione al Consiglio Comunale in sede di commissione consiliare della mia relazione sull'attività svolta. Come vi dicevo, è un passaggio istituzionale che ogni anno, alla fine, diciamo così, dell'anno di mandato, prevede che io relazioni in sede appunto istituzionale del Consiglio Comunale quelle che sono stati i principali interventi, con riferimento soprattutto, diciamo, alla realtà complessa di quelli che sono i luoghi di privazione della libertà personale di Bologna, che, come avete detto puntualmente, non riguardano solo la casa circondariale di Bologna. C'è un capitolo della mia relazione che si intitola, dedicato appunto alla casa circondariale della Tozza, la Tozza fra l'emergenza sanitaria e le criticità strutturali. Una delle, poi naturalmente tutta, diciamo così, la vita dei luoghi di privazione della libertà personale naturalmente è stata fortemente condizionata. Le difficoltà che già c'erano si sono amplificate con riferimento all'emergenza sanitaria. Però stabilmente rimane il problema del sovraffollamento, come avete puntualmente sottolineato, ovvero una capienza della casa circondariale di Bologna che prevede 500 persone, ma che in un modo o nell'altro, per varie ragioni, tendenzialmente non viene mai rispettata. Nel 2010 siamo passati, abbiamo toccato punte di selvaggio sovraffollamento, che poi tra le altre cose hanno comportato, come ricordiamo, la condanna dello Stato italiano con riferimento a trattamenti inumani e degradanti perpetrati nei confronti delle persone detenute che appunto venivano fatte vivere in questa condizione di selvaggio sovraffollamento. Quindi nel 2010 1200 persone, attualmente siamo intorno alle 750. Prima che ci fosse, diciamo così, che deflagrasse in tutta la sua virulenza l'emergenza sanitaria, quindi nel periodo come dire, precedente anche a quelli che sono stati i disordini di marzo 2020, c'erano 891 persone. Con riferimento a quella che è stata l'estate del 2020, alla luce anche dei provvedimenti che in un modo o nell'altro collegati all'emergenza sanitaria sono intervenuti, e anche e soprattutto con riferimento alla fase di rigido lockdown che abbiamo attraversato, quindi c'era stata sicuramente una minori ingressi in carcere anche dovuti ad un calo degli arresti, eravamo giunti sino a 620-630 persone. Ora sostanzialmente stiamo registrando purtroppo che i numeri stanno continuando a risalire, e soprattutto allo Stato sembra che non ci sia spazio, diciamo così, per invertire questa tendenza a livello locale e naturalmente anche a livello nazionale con riferimento al contenimento dei numeri. Ecco, garante, in riferimento, rimanendo in tema salute, perché è legato comunque al dato comunque del sovraffollamento, come si sta gestendo il contagio da Covid-19? I detenuti si sono vaccinati con seconda dose, continuano a vaccinarsi? Allora, mi prendo due secondi per ricollegarmi, finire il, diciamo così, il ragionamento rispetto alla prima domanda. In questa situazione, con riferimento all'anno e mezzo durissimo che la popolazione detenuta ha attraversato, si auspica da più parti che in sede legislativa possa essere approvato un provvedimento volto a riconoscere quantomeno un ulteriore periodo rispetto alla liberazione anticipata ordinaria, che possa naturalmente essere anche concepito come una sorta di ristoro con riferimento alla durezza delle condizioni detentive che le persone detenute durante l'emergenza sanitaria hanno dovuto sopportare sostanzialmente. Quindi magari l'ipotesi sarebbe passare dai 45 giorni di sconto di pena previsti ogni 6 mesi, magari a 75 giorni o comunque anche ad un altro periodo. Però secondo me e secondo tutti gli operatori che in un modo o nell'altro si occupano di privazione della libertà personale, sarebbe molto importante riconoscere alle persone detenute, alla luce appunto della durezza di questo periodo, questo riconoscimento. Ecco. Persone detenute che hanno affrontato il periodo dell'emergenza sanitaria, che come sappiamo ha comportato, come dire, ondivaghe chiusure, no, delle sezioni detentive a seconda di situazioni nelle quali magari ci fossero stati casi di positività rilevati all'interno, oppure anche solo semplicemente fosse stato rilevato che magari alcune persone di una sezione detentiva avessero avuto contatti stretti con una persona che era risultata positiva. Persone detenute che hanno dato, come dire, hanno aderito in maniera piuttosto importante alla campagna di vaccinazione. I numeri dovrebbero essere intorno all'80% con riferimento alla casa circondariale di Bologna. E mi permetto, diciamo così, una considerazione sui ragazzi detenuti all'istituto penale minorile. In quella sede i numeri sono molto più contenuti, ma da quanto mi risulta dovrebbe esserci una vaccinazione al 100%. Va da sé che adesso stiamo gradualmente ritornando alla normalità anche all'interno del carcere, e comunque rimane attualmente ancora operativo il protocollo sanitario piuttosto solido che hanno siglato insieme a azienda USL di Bologna e naturalmente direzione del carcere, che prevede netti percorsi differenziati, quindi con collocazioni in aree dedicate appunto con riferimento a quelli che possono essere eventualmente i casi di positività o anche altre questioni collegate al contagio da Covid-19. La ringrazio, Garante. Riprenderemo l'argomento domani perché è ospite con noi tutta la settimana. Vi lascio con una canzone e ci rivediamo con i saluti tra pochissimo. Arrivederci, presto. Arrivederci, grazie. E dopo aver ascoltato la testimonianza da oggi fino a venerdì del nostro garante comunale per le persone detenute Antonio Iagnello, ci salutiamo, vi diamo appuntamento a tra pochissimo con le rubriche di Eduradio, sempre su Lepida TV ore 13.30 e Teletricolore ore 17 e 6.30 su Radio Città Fujiko. Oggi abbiamo i dialoghi sulla cittadinanza, le interviste che Antonella ha chiamato di Caterina, se sarei io, a questa volta Franco Bonisoli. Grazie a tutti e a tutti, scriveteci a redazioneliberidentro@gmail.com e ovviamente come sempre io, Antonella ed Enea Flacco vi salutiamo e vi diamo appuntamento a domani. Grazie. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.